Essere e benessere di Nicoletta Carbone. A ciascuno il suo rito. Buongiorno da Nicoletta. Oggi voglio proprio parlare dei piccoli riti quotidiani, di quei momenti che potrebbero sembrare perdite di tempo, ma che hanno il potere di rilassarci, confortarci, risollevare il nostro umore, raddrizzare addirittura una giornata nata storta. Per questo chi ce l'ha non ci rinuncia, o lo fa malvolentieri e, se costretto, lo avverte come una mancanza, segno che, anche se piccoli, semplici e a volte un po' infantili, i riti contano. Saluto subito l'amico Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, che è in linea con noi. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, contano i riti e ci aiutano? Ma sì, i riti, fin proprio da quando nasciamo, sono proprio dei nostri grandi compagni di vita. Un rito è una serie di piccoli gesti, di piccole abitudini, di cose che avvengono in modo sempre uguale, e proprio il fatto che avvengono sempre in quel modo ci permettono di pensare che il mondo è un luogo prevedibile e che la vita, in qualche modo, anche se a volte porta delle sorprese che non ci piacciono, sia controllabile e sia gestibile. Ed ecco perché i riti sono sempre delle zone di passaggio tra un prima che magari non ci piace molto e un dopo che finalmente ci fa sentire tranquilli, oppure fra due momenti in cui noi dalla tranquillità dobbiamo passare a una zona di agitazione, e mettiamo in mezzo questo meccanismo, questo ingranaggio. Questa sorta di cuscinetto, Alberto. Esatto, è proprio così, un cuscinetto che ammorbidisce due zone che non sono ben collegate fra di loro. Senti Alberto, l'abbiamo definito cuscinetto, io dicevo dei momenti che potrebbero sembrare una perdita di tempo, ma il rito ha delle caratteristiche. Il rito intanto è molto ripetitivo, cioè lo tendi a entrare dentro un rito perché sai che è fatto di quelle modalità e di quei gesti. In generale lo scegliamo per due motivi: o per calmare l'ansia, cioè quando stiamo per entrare in una zona che ci attiva dal punto di vista emotivo, noi entriamo nel nostro piccolo rito, e quel piccolo rito è proprio un po' come un'oasi, una zona di yoga costruita da noi che ci fa fluire, ecco, nel percorso poi difficile, sentendoci un po' più tranquilli e più sicuri di noi. Quindi, scusa Alberto, in questo caso potrebbe avere una funzione terapeutica? Mi sto allargando troppo? No, assolutamente, perché noi proprio lo scegliamo per quello. La seconda modalità con cui noi entriamo nei riti è invece quello per volere bene a noi stessi. Certo. Cioè, il rito diventa una di quelle piccole coccole che noi, guarda caso, introduciamo in quei momenti della giornata che segnano un prima e un dopo. Pensa al rito del caffè al mattino. Ci sono delle persone che dicono: prima di fare qualsiasi cosa nella mia giornata, io devo avere quel momento per me. Certo. E quel momento per me è fatto di piccole cose belle, che sono proprio una zona di oasi, la nostra spa quotidiana, in qualche modo ce la costruiamo noi attraverso i riti. Tu hai citato il caffè, perché mi sembra che una delle caratteristiche del rito deve essere l'accessibilità. Il rito deve essere facile, non implicare spesa o costare molto poco. E soprattutto deve essere, se ci pensi bene, fatto sempre dagli stessi ingredienti, dagli stessi elementi. Cioè la ricetta di un rito che lo rende appunto così rituale è che tu sai prevedere esattamente che sapore avrà quel caffè. Prova a pensare, se non trovi la tazzina che usi al mattino di solito per il caffè, tu blocchi tutto e vai alla ricerca della tazzina, perché quel rito deve avvenire in quel modo lì. Uno dei problemi forti però nell'entrare e nell'uscire dei riti è che il rito è meraviglioso se noi siamo persone che hanno un buon rapporto con i processi di controllo, cioè se noi siamo capaci di controllare il rito, perché ci sono persone che hanno una personalità magari un po' ossessiva, un po' ansiosa fino all'eccesso, e a quel punto si trovano controllati dai loro riti, e a quel punto il rito si trasforma in mania e può essere disturbante sia per la persona che lo vive sia per chi gli sta intorno. Quindi da oasi a prigione. da oasi a prigione. Se ci pensi, le nuove tecnologie in questo senso sono proprio uno di quegli elementi. I nostri nonni non potevano avere la ritualità del controllo della mail al mattino oppure del controllo della mail prima di andare a dormire, che potrebbe essere un piccolo rito di ingresso e di fine della giornata, un ponte tra il mondo che sta dentro casa e il mondo che sta fuori. Però prova a immaginare, ci sono delle persone che trasformano questo rito in una mania, non riescono più a staccarsene, tengono per esempio il cellulare sempre acceso durante la notte perché non possono immaginare di non leggere immediatamente un SMS che gli arriverà. A quel punto hanno una sindrome da gufo perché dormono molto male, ma questo tu lo racconterai in un'altra puntata dedicata al sonno, ma allo stesso tempo quello che scopriamo è che la loro ritualità di avere sotto controllo tutto ciò che gli arriva è diventata una mania che rischia di diventare un boomerang. Comunque, Alberto, è vero che l'uso di internet è diventato un nuovo rito. Ci sono persone che anche senza esagerare si affacciano alla rete, diventa un appuntamento più che quotidiano. Per molti di noi in realtà le nuove tecnologie adesso scandiscono proprio il palinsesto della giornata, cioè i gesti del risveglio potrebbero essere accendere il cellulare, accendere il computer, controllare gli SMS, controllare le mail. I gesti, il rito della nanna, quelli che erano i riti della nanna di quando eravamo bambini, ora da adulti, diventano spegnere tutto, fare buio in attesa che cominci un nuovo giorno. Internet è diventato un'abitudine, ma ha cambiato anche molte delle nostre abitudini. In studio qua con me Enrico Pagliarini. Ciao Enrico. Buongiorno. Che conduce Ciao. Sabato pomeriggio 2024. Enrico, è vero, internet, la rete ci ha cambiato. Sì, ha cambiato molto. Non so se dire in meglio o in peggio. Io sono tra quelli che dicono in meglio. Certo. Però a volte la rete è così pervasiva, ci avvolge. Ci uncina, esatto, e ci costringe. Direi che il rito a volte diventa un po' una mania. Io stesso faccio l'esempio personale sulla mia vita, insomma. Io la prima cosa che faccio, ma anche perché è la mia sveglia, sì. mi squilla lo smartphone che poi ha tutte le email. Quindi inevitabilmente, non dico che comincio a guardare subito le email appena da sveglio, però un'occhiatina gliela do. Sai invece qual è il mio risveglio quotidiano? Quando ancora la casa è tutta in silenzio, tutti dormono, prendere il caffè in compagnia del mio cagnone. Siamo tranquille, io e lei, tutta la casa è in silenzio. Io bevo il caffè, lei mi guarda, ci facciamo due coccole e poi si Però parte. Però pensa che il tuo cagnolone o cagnolino, non cagnolone, so se è grande o piccolo, pesa 38 kg, potrebbe essere presto collegato ad internet. Veramente? Eh sì, ci sono già, da qualche... Non voglio dirglielo perché sennò non prende più caffè. Ci sono già da qualche anno degli strumenti che potresti attaccare al guinzaglio che controllano dove va il cane. Cioè se il cane si allontana troppo ti squilla magari lo smartphone e ti dice, magari te lo fa anche vedere. Quindi vedi che tutte le cose ormai sono collegate. Sono sicura che a lei non piacerebbe perché è un cane molto indipendente. A proposito di riti, sì. Se noi pensiamo ad una serie di siti web, di siti internet o di servizi che noi abbiamo sullo smartphone, che ne so, le previsioni del tempo sono un rito che si sta sempre più spostando su internet. Sì. Le notizie sono un rito che sempre più si sta spostando su internet. La borsa, le informazioni della borsa, il conto della banca, perché anche questo, se noi ci pensiamo, fino a qualche anno fa, non so in quanti controllavano tutti i giorni, che ne so, andando in banca, andando al bancomat, qual era il nostro estratto conto, magari lo si guardava una volta alla settimana, però sicuramente a me capita, controllo spesso e quindi quello diventa, se vuoi, anche un rito per essere tranquilli. L'ultima cosa che fai durante la giornata, così dormi tranquillo. Il problema è che se però scopri qualcosa di strano, non dormi più tranquillo. Infatti. Enrico, tu hai detto che ti svegli ormai con lo smartphone che suona. Sì, ho anche una radio sveglia, perché a volte devo essere sicuro di svegliarmi, allora ho un sistema di allerta. Ci sono però altre abitudini su cui internet ha messo lo zampino e che ha cambiato. La sveglia viene sostituita dallo smartphone. Pensa alla nostra giornata tipo, naturalmente con un occhio al nostro benessere, dato che siamo a essere benessere. Sì, allora una cosa che sicuramente sta accadendo in modo molto forte su tutti gli appassionati di smartphone, sì. Ma poi gradualmente poi questo si sposterà anche a quelli che fra poco utilizzeranno gli smartphone. Sicuramente ci sono molti strumenti, molti aggeggi, chiamiamoli così, che si possono collegare al nostro smartphone per, che ne so, misurare la pressione, misurare quello che noi facciamo durante il giorno, misurare quanto corriamo se andiamo a correre, controllare quanto mangiamo e soprattutto che cosa mangiamo. Magari lo smartphone ci dice: guarda che hai mangiato troppi dolci. Come funziona questa applicazione? Molto semplice. Allora sì, ci sono alcune cose che sono pure applicazioni, sì. E noi dobbiamo, diciamo, inserire dei dati nell'applicazione. L'applicazione tiene traccia e ci fa un report magari di quello che mangiamo, eccetera eccetera. Oppure, ed è la cosa molto interessante degli ultimi mesi, anni, direi che negli ultimi mesi sta un po' esplodendo questo fenomeno, ci sono degli strumenti proprio fisici, cioè degli apparecchi, sì, che noi colleghiamo allo smartphone. Faccio un esempio molto semplice da comprendere, quello per misurare la pressione. Dai, mi piace. Come si chiama lo strumento che misura la pressione? Lo sfigmomanometro. Questo strumento esiste anche per smartphone, quindi io me lo metto al braccio, sì. Dall'altra parte però non ho il macchinino, ho lo smartphone. Lui in persona. Esatto, allora lo smartphone mi dice qual è la mia pressione, ma fa di più. Dopo una settimana mi fa vedere la curva, come la mia pressione cambia rispetto al giorno. Insomma, magari se io me la provo la mattina, la sera. Quindi sostituisce un po' l'abitudine di molte persone, soprattutto magari di persone, sì, anziane, di andare in farmacia o andare dal medico a misurarsi la pressione. Naturalmente non sostituisce il medico, ma ci permette, no, di andare dal nostro curante con il quadro della, esatto, situazione. Se poi questo è collegato col computer del nostro medico, il medico durante la settimana potrebbe sapere qual è la nostra pressione. Ti dico solo, ti accenno un'ultima cosa perché è bellissima. Allora, ci sono già dei medicinali che hanno dei chip organici, che quindi poi vengono digeriti, non creano nessun nulla, problema, che collegati magari ad un cerotto che io metto sulla pancia, comunicano al cerotto che il medicinale effettivamente è stato ingerito. Quante volte succede che uno dice: ma l'avrò presa o non l'ho presa la medicina? L'ho presa o non l'ho presa? Ecco, in questo caso siamo ancora in fase di pre-commercializzazione, ma esistono in qualche parte del mondo degli esperimenti già veri, in cui appunto queste medicine, queste pillole, parlano e dicono: sono nello stomaco. Tutto a posto. Tutto a posto. Sto facendo il mio lavoro. Pensa che bello, eh? Enrico, dobbiamo frequentarci più spesso. Intanto, per frequentare Enrico Pagliarini non avete che da seguirlo sabato pomeriggio a 2024. Sì, oppure venire negli studi di Radio 24 a prendere un caffè. Cioè, ma questo vale, ci piace. Posso, sì, sì, posso dirlo, sì, sì, apertamente, sì, sì, alle fare, tue, sì, fans? Sì, sì, va, sì, bene, allora raggiungete Enrico Pagliarini che vi aspetta per un caffè negli studi di Radio 24. Bene, grazie a voi, buona giornata. Tra riti nuovi e riti vecchi aggiungiamo, almeno proviamoci ad aggiungere un pizzico di novità per superare un po' la monotonia. Qua in studio con me il dottor Luca Voledo, naturopata. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Incontri ravvicinati in questo periodo. Molto frequentemente, con grande piacere. Dottore, il rito, come abbiamo detto con Alberto Pellai, ci rassicura, aiuta anche in alcuni casi a tenere un pochino basso lo stress. Sono delle coccole, delle oasi, dei cuscinetti in cui è piacevole appoggiare, no, la testa, soprattutto quando noi siamo particolarmente stressati. Però è vero che il rito, l'abitudine, la ripetizione a volte possono togliere anche un po' di sale alla nostra quotidianità, alla nostra vita, nel senso che bisogna aggiungere qualcosa di nuovo, qualche sapore in più. Sì, mi interessava molto quello che diceva il dottor Pellai, quando il rito diventa una schiavitù in qualche modo, senza arrivare a stati patologici ovviamente, ma pensando proprio alle cose che facciamo tutti i giorni e traslando il discorso a quelle che sono più le mie specificità, penso a quello che vedo molto spesso anche nella mia attività di studio da un punto di vista alimentare. Sì. Noi tutti crediamo di avere un'alimentazione varia e completa, quando in realtà, ahimè, solo molto pochi di noi hanno un'alimentazione alimentazione di questo tipo, mangiamo sempre le stesse cose. Complice da un lato un certo marketing alimentare molto seduttivo, ma anche la nostra abitudinarietà, la nostra monotonia, in alcuni casi la nostra pigrizia mentale. Facciamoci caso, quando andiamo al supermercato a fare la spesa, corriamo automaticamente, o anzi andiamo a passo da sonnambulo quasi, verso gli scaffali, verso le file del supermercato, dove andiamo sempre in maniera molto automatica, certo. Peschiamo sempre negli stessi luoghi senza mai soffermarci a cercare di variare la nostra alimentazione. Basta prestare attenzione alla lista della spesa. È un buon esercizio che mi ha suggerito proprio uno degli esperti di Essere Benessere, quando a proposito di dieta varia ed equilibrata io gli dicevo: ah, io vario, mi piacciono molto le verdure. Allora mi ricordo che mi disse: si segni la lista della spesa, poi la confronti con quella della settimana dopo e quella della settimana dopo ancora, e poi segni quale è l'alimento nuovo. E in effetti io ho toccato con mano, per questo è un suggerimento che passo anche a voi, che compravo sempre le stesse cose, un po' perché rispettiamo la stagionalità e quindi in parte è giusto. Ci sono delle verdure e della frutta che ritornano in inverno con più frequenza perché questa è la loro stagione. Ma come suggeriva lei, dottor Avoledo, anche un pochino per pigrizia. Un po' per pigrizia. Perché sappiamo già come le vogliamo cucinare, sappiamo già che piacciono i bambini, sappiamo che durano magari un pochino più a lungo e quindi ci facciamo condizionare. Ma vi invito a fare l'esercizio della lista della spesa. Lista della spesa è bellissima, mi piace molto. Io spesso mi capita di suggerire proprio di fare uno sforzo di questo tipo su tutte le categorie alimentari, quindi carne, pesce, legumi, frutta in guscio, verdura, frutta, ogni volta che si va alla spesa fare lo sforzo, magari appunto aiutati da questa bella idea della lista della spesa, di comprare qualcosa di nuovo, sì, rispetto alla settimana prima e rispetto alla settimana precedente. Ancora, settimana scorsa abbiamo comprato sedano, carote e cavolfiori, e la prossima broccoli, catalogna e pomodori, e così per la frutta, e certo, così per la carne. I più bravi mangiano riso, qualcuno il mais in qualche regione d'Italia, ma ci sono moltissimi altri cereali, pseudocereali, segale, avena, orzo, quinoa, amaranto per i più esotici, grano saraceno. Tra l'altro nei supermercati i cereali sono abbastanza vicini tra di loro, quindi sì, non dobbiamo neanche cambiare molto le nostre abitudini, mi riferisco nel cercare questi prodotti. È vero, però anche lì ci sono 50 metri lineari di spaghetti, rigorosamente spaghetti, altri formati di pasta, rigorosamente di frumento, e magari molto ben nascosti in fondo gli spaghetti di mais, i chicchi di farro, l'orzo in un metro quadrato minuscolo. Ma quindi ci sono. Il consiglio, e noi adesso diamo la linea ai mercati, al meteo, e ritorniamo come subito dopo col dottor Avoledo, è aggiungete novità alla vostra ritualità. Variare. Essere e benessere. Ecco un'abitudine, dottor Avoledo, molto italiana: il momento del caffè, la pausa caffè. Perché rinunciarci? Ma infatti non bisogna rinunciarci, il problema semmai può esserci per chi consuma 5, 7 o più caffè al giorno. Allora, anche in questo caso manteniamo un rito ma aggiungiamo un po' di novità. Sì, perché è vero che è proprio il rito quello che ci interessa più che il sapore del caffè, soprattutto quando se ne sono bevuti 7 in una giornata, è proprio il rito. Allora manteniamo il rito e magari sostituiamo il caffè con dei surrogati proprio del caffè, come il molto noto orzo solubile, sì, che si trova anche nei bar. Oppure con delle cose proprio diverse che però ci ricordano, ci permettono la gestualità e ci permettono lo stesso rito. Penso per esempio al tè verde. Il tè verde, che è un vero e proprio cibo, o meglio bevanda medicina, si può preparare facilmente a casa, si può portare via anche in un termos, in una bottiglia, si può bere anche freddo quando arriva l'estate. Ed è un vero e proprio alimento, una bevanda medicina, perché sul tè verde ne stanno scoprendo, come abbastanza noto ormai, di tutti i colori. È un anti-aging, un antiossidante. antiossidante, migliora l'infiammazione in certi distretti corporei. Quindi il tè verde è una bevanda con cui si colgono due piccioni con la fama. Ricco di polifenoli. Ricco di polifenoli, sì, sono proprio loro le catechine, bravissima. Quindi il tè verde si può bere con grande generosità, non è eccitante come il tè nero, ecco, non lo berrei a mezzanotte, ma fino alle 4 del pomeriggio anche 2 o 3 tazze di tè verde al giorno. Grazie, lei ha sottolineato anche la quantità, perché di solito si dice per il caffè non superate le 5-6 tazzine al giorno, mentre per il tè si tende a sottolineare i benefici per la salute, ma poi molti ascoltatori mi chiedono: ma quanto posso berne? Nell'arco della giornata 2-3 tazze, non superare quelle, soprattutto evitare di berlo proprio magari prima di andare a dormire. Soprattutto il tè nero, perché... in particolare il tè verde è meno eccitante. Ma anche lui, appunto, non lo berrai a mezzanotte. Perché si parla del potere eccitante del caffè, proprio per rifacendoci alla caffeina, ma il tè contiene la teina, insomma, esatto. La stessa cosa, giusto? Giustissimo. Andiamo ad un altro rito, un rito che molto piacevole, che è quello della tisana prima di addormentarsi. Sì. C'è chi prende la camomilla, chi prende l'infuso di tiglio, ma anche qua, dottor Avoledo, manteniamo il rito, soprattutto se è un rito familiare. La tisana d'inverno è proprio un momento bello da condividere con le persone che amiamo, ma, dottor Avoledo, oltre alla camomilla e al tiglio c'è di più, c'è dell'altro. Ma sì, perché non, le piante, ne parliamo spesso, essere e benessere, le piante hanno dei poteri molto interessanti e possiamo anche qua cogliere l'occasione del rito e magari di ricercare un'azione particolare che ci viene regalata da una certa pianta. Quindi benissimo, niente in contrario rispetto alla camomilla o al tiglio, che hanno un'efficacia sedativa che facilita il sonno, anche se la camomilla è molto sopravvalutata da questo punto di vista. Ma possiamo utilizzare anche tantissime altre erbe. Se ci serve questo tipo di effetto, possiamo pensare al biancospino, alla melissa, alla passiflora, oppure se abbiamo altre problematiche, sfruttiamo altri poteri delle piante. Pancia gonfia, una bella tisana di semi caldi, quindi che è anche molto aromatica e saporita, anice, cumino, finocchio, erbe sgonfia pancia, piuttosto che se abbiamo necessità di migliorare la diuresi, ad esempio, per fare più pipì e per sgonfiarci perché ha problemi di ritenzione idrica, si possono trovare facilmente in erboristeria, ma ormai anche nella grande distribuzione, nei supermercati, le classiche erbe diuretiche, ortossifonide, betulla, gramigna, verga d'oro. E per una tisana del buon umore? Per una tisana del buon umore si può optare per tutte queste erbe che in parte hanno un'azione anche antiansia, come la passiflora, piuttosto che il tiglio stesso di cui si diceva, che hanno un'azione rasserenante della sfera nervosa. Grazie, dottor Avoledo. Andremo di tisana. Buona giornata. Quindi manteniamo la ritualità, ma aggiungiamo un po' di novità. Scusate la rima, ma intanto voglio salutare la dottoressa Maria Giovanna Luini, medico, comunicatore scientifico dell'OIEO e scrittore. Buongiorno, bentornata. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Cambiare un po' fa bene. Cambiare un po' fa bene e possiamo portare questo cambiamento dentro al rito. In effetti è vero che avere una ritualità è molto positivo, aiuta la salute fisica e aiuta la salute mentale. Però all'interno di questi riti dovremmo ricordarci di cambiare sempre un dettaglio al giorno. Vuol dire che la nostra psiche, la mente, ha bisogno di spaziare. Se è chiusa dentro limiti di riti sempre uguali, rischia di andare verso l'ossessione o quantomeno quella che si chiama ossessività. Sono ossessiva quando ripeto sempre la stessa cosa e questo non è molto sano. Allora, perché non inaugurare un rito nuovo? Cioè, prendo l'abitudine ogni giorno di cambiare qualche cosa. Diventi un'abitudine cambiare l'abitudine. Se per esempio tutte le mattine alle 7:15 faccio 3 passi per arrivare al bagno e farmi una doccia, bene, faccio il giro largo dalla cucina e di passi ne faccio 26. È un esempio stupido forse, però rende l'idea di come si possa cambiare anche un solo piccolo dettaglio e quindi vivere la vita in modo differente. In questo modo i nostri neuroni sono stimolati ad affrontare la novità. Il cervello legge la novità, si adatta per viverla ed ecco che il rito di una novità al giorno diventa decisamente positivo per noi. È molto stimolante cambiare anche il tragitto per andare in ufficio, per accompagnare i figli a scuola. Sì, dettagli di questo genere sono importantissimi. Non è che necessariamente noi ogni giorno dobbiamo cambiare un enorme dettaglio che ci costa fatica. Basta individuare quella piccola abitudine che in fondo potremmo per una volta buttare via e crearne un'altra. A quel punto nel nostro cervello scatta un meccanismo molto interessante di adattamento e di apprendimento, perché impariamo. E scatta anche la gratificazione, perché quando impariamo il nostro cervello è contento, ci sentiamo stimolati, ci sentiamo liberi. Ricordo a tutti che siamo liberi e che i nostri neuroni hanno bisogno di differenziarsi per imparare. E a proposito di riti, Alessandra mi scrive: essere e benessere è il mio rito quotidiano. Se non l'ascolti in diretta, lo sente in podcast. Mi fate stare bene. È un messaggio bellissimo che io non ho potuto evitare di leggere, anche se suona un po' come un'autopromozione. Ma a questo punto non mi resta che suggerirvi di farmi rientrare nei vostri riti quotidiani. Ma in questo caso non ascoltate i consigli della dottoressa Luini. Non cambiate più. Dottoressa Luini. Assolutamente, questo è un rito da mantenere, sempre su Radio 24 a quest'ora. Dottoressa Luini, perché proprio nel corso delle nostre trasmissioni abbiamo invitato gli ascoltatori a dedicarsi a dei piccoli riti quotidiani nuovi per molti di noi che ci regalano benessere. Uno di questi è quello che abbiamo seguito anche con delle puntate dedicate allo yoga con Daniele Belloni sulla meditazione. Una meditazione che non deve essere necessariamente molto lunga, ma sono dei momenti, pochi minuti da dedicare più volte nel corso della giornata, concentrandoci sul nostro respiro e cercando di liberare la mente. Leggevo proprio di recente alcuni articoli molto interessanti sulla respirazione. La respirazione, per esempio, quando si usa per allentare la tensione, scacciare l'ansia o scacciare la paura, ha un effetto fisico quasi istantaneo. Allora, tutti i giorni, questo è un rito da non abbandonare, non cambiare. Tutti i giorni dovremmo, anche solo per qualche minuto, ma più volte, provare a respirare con calma, liberando la mente, che significa non faccio uno sforzo tremendo per essere lì concentrata e assomigliare a una sceta. No, significa sto calmo, butto via i pensieri, se anche affiorano li lascio andare via e non mi ci soffermo, e trovo la pace mentale, respirando in modo adeguato. La respirazione ha un effetto fisico e mentale immediato, quindi secondo me preservare la salute e anche recuperarla è una questione molto di mente e di respirazione. Voglio dire che ci sono alcuni studi molto interessanti sulla meditazione addirittura durante le terapie per malattie gravi come i tumori. Viene applicata la meditazione non come sostituto delle cure, lo voglio sottolineare, ma come adiuvante, cioè come accompagnamento delle cure per un miglioramento delle prospettive della persona. Ebbene, a quanto pare la meditazione funziona insieme alle cure della medicina tradizionale e migliora la probabilità di guarigione. Dottoressa Luini, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro buoni riti. E grazie. Tanto benessere. Grazie anche a voi, grazie mille. Essere e benessere. State svegli ad aspettar che la notte scenda giù, che la luna salga su. È la nanna di Mary Poppins e da qui prendiamo il passo per parlare dei riti dei bambini. Uno di questi è senz'altro il momento dell'addormentamento. In linea con noi c'è sempre Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore all'Università di Milano. Alberto, Per me è un rito anche, c'è stato un tempo in cui proprio Mary Poppins era un rito, perché con le mie bambine quando erano piccole ne vedevamo a pezzettine, c'era proprio nell'arco della giornata il momento in cui si vedeva in un pezzettino di film e Mary Poppins andava alla grande, come Lily e il vagabondo, le sapevamo a memoria. Quindi io, tanto che sento la musica, vedo già le immagini di questi bambini che cercano di stare svegli ma poi crollano. Alberto. In effetti per i bambini i riti degli adulti sono fondamentali. Intanto, come abbiamo detto all'inizio di trasmissione, siccome i bambini non sanno quanto il mondo e la vita può essere prevedibile, avere a fianco a sé adulti che li fanno entrare in riti molto piacevoli aiuta proprio i bambini a sentire che il mondo e la vita sono posti belli in cui stare e in cui vivere. Il secondo aspetto è che attraverso i riti i genitori fanno con i loro bambini delle cose bellissime. È vero. E quindi i gesti della cura diventano anche gesti d'amore. Se tu ci pensi, un qualsiasi educatore, istitutore, anche quelli, la signorina Rottermeier curava la sua Heidi, però nei gesti della cura non c'era amore. I riti, un po' come le coccole, trasformano invece i gesti della cura in gesti d'amore e costruiscono dentro di noi proprio quella sorta di percezione, impressione, suggestione, per cui le relazioni con mamma e papà diventano relazioni che ci insegnano l'amore. Alberto, a proposito del rito dell'addormentamento della ninna nanna, ci sono delle ricerche molto interessanti riguardo e sottolineano come la ritualità può essere molto efficace nel promuovere lo sviluppo del bambino, in questo caso proprio lo sviluppo intellettivo. Allora, ci sono due aspetti che sono associati ai riti che mettiamo in gioco, per esempio, nella ninna nanna. Uno è proprio legato alla ritualità relazionale, cioè il fatto che il genitore farà sempre quei gesti, darà quelle sicurezze al bambino che deve entrare nel mondo del buio, del sonno e dell'indefinito, lo abbraccerà, rimarrà in contatto, gli darà un bacino, gli canterà una ninna nanna, eccetera, eccetera. Il copione deve essere sempre uguale, preciso. Molto prevedibile, tanto che se non glielo fai in quel modo, i bambini si lamentano, si ribellano, certo, e dicono a mamma e papà non hai fatto quella cosa. E questi sono gesti per lo sviluppo emotivo. Dentro a questi gesti tu puoi scegliere poi di fornire anche degli stimoli al bambino, per cui la cosiddetta favola della buonanotte oppure la ninna nanna, che ha quella specifica, speciale musicalità che entra proprio dentro al ritmo del sonno del bambino, ecco, quelli sono stimoli che non solo integrano la parte emotiva, ma che arrivano anche alla parte più alta del cervello del bambino e diventano stimoli cognitivi. Non per niente un bambino che si è sentito raccontare tante magnifiche storie quando era bambino è di sicuro un bambino che ha delle potenzialità creative e cognitive in più rispetto ad altri. Alberto, sono, come sottolineavi tu, dei momenti molto intensi e di grande intimità che si creano tra genitori e bambini, tanto che quando i bambini crescono i genitori ne sentono quasi la mancanza. Insomma, Alberto, bisogna saperci entrare, ma dai riti bisogna poi saper uscire. Svegliati! Daniele l'abbiamo già svegliato, sta di là che ci aspetta. Fra un quarto d'ora è il momento peggiore della giornata. Perché? Tra un quarto d'ora sono le 3. Svegliati! È l'ora del lupo! È l'ora del lupo, è l'ora più brutta. È l'ora in cui sei più soli, è l'ora in cui sei più soli. Da 12 anni, Daniele, alle 3 lo prendiamo e lo portiamo sempre a lettone con noi. Entrate. Allora, Daniele, come va? Come sta andando questa Bene. Notte? Hai paura? No. Lo vedi quanti siamo a farti compagnia? Sì, sotto sì. Le coperte, via! Via! Sicuro che non hai paura? Sì, sì. Lo sai che Daniele non ha mai avuto una babysitter? No? Perché? Perché noi tutti questi anni sempre siamo rimasti con lui. Sempre? Se mai usciti? Mai. E allora ci siamo letti tutto. Abbiamo letto von Kleist. Hegel. Spinoza. Federico Tozzi. Abbiamo letto Senofonte, tutto Svevo. Senofonte. E poi abbiamo Erodoto. Tutto Tacito. Caro Alberto, da caro diario ci arriva un'indicazione. Beh, questa scena direi parla da sola. Fantastica. Ed è proprio il segnale che ad un certo punto i figli fanno a meno dei riti e ce lo fanno capire. E spesso però invece i genitori non ce la fanno. Allora, diciamo così, che i riti ai bambini regalano le radici e il senso di appartenenza alla vita, ma dopo un po' i nostri figli devono anche indossare un paio di ali e saper uscire dal nido. Ecco, quando hanno le ali e devono fare prove di volo, i riti non servono più. I genitori devono imparare a fare un passo indietro. Si accantonano. Senti, Alberto, però ci sono bambini proprio da un rito possono recuperare un po' di sicurezza. Sto pensando ai bambini a cui l'annuncio della separazione dei genitori crea veramente un grande sconquasso nella vita personale. C'è una filastrocca proprio dedicata all'importanza di questi riti che tu hai scritto per un libro rivolto ai genitori separati. Io vorrei ascoltarla insieme a te in modo da commentarla insieme. Stasera ho una grande voglia di mamma. Con te, il mio papà, dovrei fare la nanna. Ma nella pancia si è acceso un vulcano. Mi sento un po' triste, un po' tanto strano. Vorrei dire a mamma, rimani con me. Ho tanta, tantissima voglia di te. Papà, il mio vulcano prova a domare e la mia tristezza ad addomesticare. Mi fa una spremuta, mi porta un biscotto. Mi mette vicino il mio orsacchiotto. Poi mi dice dolce, aspetta un minuto, scompare di là, e io resto qui muto, a pensare che cosa si potrà inventare per calmarmi e nel sonno farmi tuffare. Poi torna e in mano ha una fotografia. Al centro c'è il viso della mamma mia. L'appoggia di fianco a me sul cuscino. Sorrido e poi dormo fino al mattino. Alberto. Ma direi che di nuovo, anche in questo caso la filastrocca parla un po' da sola. Quando due genitori si separano, quello che scompare nella mente del bambino è l'idea della prevedibilità, cioè che cosa mi succederà, dove dormirò stanotte, dove dormirò fra due giorni, che cosa mi succederà. È proprio un po' la struttura del mondo al quale il bambino è abituato che salta per aria. Ed ecco perché i due genitori che si separano, nel loro progetto di cogenitorialità, che invece deve andare avanti, devono saper garantire al bambino quella continuità che non può più esistere nell'esperienza di coppia, ma che deve invece continuare a esistere nella vita del bambino. Cose semplicissime, sì, danno al bambino l'idea che mamma e papà rimangono alleati come genitori anche se non si vogliono più bene, fargli trovare al mattino, alla colazione, nelle due diverse case, lo stesso cibo, la stessa scodella, le stesse cose che il bambino apprezza, fargli spostare, ma spesso questo lo fa lo stesso da solo il bambino, fargli proprio spostare un giocattolo da una casa all'altra quando trasloca magari per il fine settimana. E poi se un genitore, come in questa filastrocca, un genitore attento ai bisogni educativi del bambino, sa proprio che quelle ritualità della nanna a volte includono che io vicino a me devo sentire che se ci sei tu papà posso avere però anche almeno l'idea e l'immagine della mamma. Ed ecco che il papà in quella filastrocca, per addormentare il suo bambino, gli porta la fotografia della mamma. Riti che parlano al cuore e che fanno sentire a casa. Grazie Alberto per essere stato con noi, buona giornata a te. Buona giornata a voi e buon rito a tutti. Buon rito a tutti e l'appuntamento come sempre torna domani. Un saluto da Nicoletta. Essere e benessere.